Mangia come parli, mangia come parli. Di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Buongiorno, benvenuti, si può dire buon Natale con qualche ora d'anticipo, certo, lo possiamo buon Natale, dire. Buon Natale, c'è a tutti, un po' buon clima, Natale Pier. Jingle bell, jingle bell, niente, basta, ho voglia di cantare. E abbiamo anche degli ospiti musicali oggi, ma oggi è una puntata speciale, ci sono gli SMS, gli SOS Soldani con tutti i vostri messaggi vocali, ci sono tutte le cose solite, ma faremo un giro d'Italia clamoroso e poi tu ci darai un menù. Assolutamente, il menù sarà la base di questa puntata, dove piano piano nei vari blocchi sveleremo anche la ricetta. Ecco. Mi aiuterai anche tu a svelare la ricetta. Ok, 349-238-6666 è sempre per i vostri messaggi vocali per gli SOS Soldani. Ci vuoi già dire il menù, farci venire la cuolina? Io direi di sì. Io approfitto per dire che appunto il giorno di Natale è un bel giorno per la convivialità, per chi è religioso anche per questa ragione, e soprattutto per non abbuffarsi. Lo devo ripetere, Pier? Ma basta, ma Lo sto dicendo, bisogna farlo in punta di piedi. E quindi questo menù che io dirò sarà un menù anche per il bene delle persone, per il benessere. Dici solo l'antipasto? La prima è un tegame di carciofi, scarola, olive candite, pera e un tocco di liquirizia. Molto interessante, così come molto interessante il nostro primo ospite, che è Saturnino. Come va? Buongiorno, buon Natale, buongiorno. Saturno, buongiorno. Auguri Saturno. Ciao Davide, ciao Marco, come state? Tu, bene, bene, tu lo festeggi con Lorenzo, state lì che suonate, celebrate la vita. No, in realtà torno, no. Sono sempre qui ad Ascoli con i miei, mi sembra è obbligatorio. Mi sembra fondamentale. Senti, visto che dici Ascoli, scusa, giusto una ricetta, olive ascolane ripiene da casa Saturno il giorno di Natale, ci saranno o no? Ma certo, ci sono sempre, tra l'altro per la cena della vigilia ci sono di pesce. Ah, vedi, perché lui è come me, mangia di magro. Perché vedi? Qua devi sapere che io stavo parlando prima con lo chef e lui ci diceva che il rito ambrosiano, poi ormai sono mezzo imparentato con, cioè, no, sei mezzo milanese tu. Quindi so questa cosa. Voi il 24 sera mangiate come se non normale, ci fosse un domani. Mangiamo una serata normale, anzi, più delle volte stiamo un po' più indietro per prepararci poi a quello, però che io non amo, la bufata del 25. Pesce, no? Non avete l'obbligo del pesce. Ma qualcuno sì ce l'ha, però fondamentalmente si bada più a preparare, a quelli che sono i preparativi per il giorno. Saturno, questi non mangiano il 24 sera, cioè dietro a questa cosa. No, è vero, ma lo facciamo anche noi qui ad Ascoli, lo facciamo anche noi, si mangia pochissimo la sera della vigilia. Pochissimo. A me questo pochissimo non è imbiacciato, si mangia soprattutto di magro, si mangia il pesce, di magro, no? Esatto, di magro, però esatto. Poi se a fianco al pesce mettiamo un litro di olio, voglio dire, non è che sia proprio di magro. Questo non c'è dubbio, perché lui mi cazzia sempre, capito? Mi trova lievemente sovrappeso, cosa fra l'altro assolutamente infondata. Senti, vinci sgrassi. Lievemente, esatto, è infondato che sia lievemente, purtroppo è pesantemente. Senti, vinci sgrassi, li mangi, li sai fare? I vinci sgrassi, no, mia madre li prepara ogni tanto. Mia mamma sì, ancora li prepara, certo. Che è un timballo di manzo con la salsiccia, il crudo, no? I funghi. Ma non lo so, lì poi il giorno di Natale cucinano qualsiasi forma di animale. Tutto viene messo a tavola per la convivialità e poi assaggi una cosa, l'altra, poi finisci di mettere il pesce sulla carne, la salsa, il panettone, quindi poi sì, evidentemente ti scappa anche la ricetta, vero? Ma tu cucini? Io no, per niente. Lorenzo? Uguale. Ecco, quindi, cioè, però è una buona forchetta, sì, sì, infatti mi intrattengo spesso con Davide appunto perché cucina bene lui. No, è un'ottima forchetta come del resto tutti. Poi noi, solo che è magro questa ci cosa. Ci puoi raccontare, Saturno, del tuo ultimo periodo sulla parte vegetale della cucina, vero? O sbaglio? Guarda, ultimamente sì, sono andato sulla parte vegetale per 4 anni, quasi 5, poi invece sono dovuto tornare a mio malgrado sulla parte carnivora, perché mi hanno dato questa dieta basata proprio tutta su un'alimentazione particolare per guarire dal reflusso gastrico. Ah. E quindi mi sono scoperto col DNA da cacciatore e raccoglitore, che non lo sapevo, e mi hanno tolto tutti gli zuccheri possibili e immaginabili. Brutta. Quindi anche pasta, evidentemente, ti hanno tolto. Tutto, pasta e qualsiasi cereale, tutti i cereali. Ma lo farai per un periodo, perché so che tu ami la cucina. Per adesso tre mesi. Però la cosa incredibile è che la tosse sta sparendo, è quasi sparita del tutto e non ho più nessun problema, senza prendere nessun farmaco, che questa è la cosa pazzesca. Ma sai che il miglior farmaco, le migliori, le più grandi ricerche che si fanno è quello sull'alimentazione, dove vero, c'è un equilibrio di alimentazione. Devo dare conferma perché l'ho sperimentato su me stesso, quindi è incredibile questa cosa. Assolutamente, allora per rispetto, io non ti ricordo che una delle eccellenze marchigiane sono i maccheroncini di Campofilone in sugo, non te lo ricordo, non te lo ricordo. Ma non sai quanti ne ho mangiati. Ti sei portato avanti negli anni, non ti ricordo che ci sono i cappelletti in brodo, non ti ricordo niente di tutto questo. Non me lo ricordare. Ti faccio un grande in bocca al lupo, un saluto a Lorenzo e a tutta la banda, complimenti. Grazie, fra l'altro state andando benissimo, ma voglio dire, insomma, non fa più neanche notizia, no? Non fa, il giorno in cui mai, ma tanto non succede, allora sì che farebbe notizia. Complimenti al professor Saturno. Allora, allora mi piace questo tegame. Come si fa questo tegame? Lo facciamo. Ma è semplice, anzitutto. Questo è l'antipasto del menù di Natale. Prendiamo magari dal fruttivendolo dei carciofi già spinati, puliti, il cuore di carciofo, la scarola possiamo prenderla, lavarla e tagliarla piccoli e sfogliarla, diciamo. Le olive le denoccioliamo, le asciughiamo con una pentola antiaderente, la pera la sbucciamo e la arrostiamo con un velo di olio. Mettiamo tutto assieme in un tegame, cuociamo per circa 20 minuti a forno sui 180 gradi e poi alla fine prendiamo un altro goccino di olio, una spolverata leggera di cacao amaro e poi un tocco di liquirizia. La liquirizia prendiamo naturalmente quella calabrese, attraversare l'Italia, e la sciogliamo in un goccio d'acqua e mettiamo un velo anche di questa liquirizia. Questo è l'inizio di un menù natalizio, dove non è per la buffata, ma è la convivialità e per lo star bene. Esatto. Bravo, mi piace molto. È molto interessante, molto stimolante, molto intrigante. Devo dire che sempre più gente ci ascolta sui podcast, mi arrivano tante segnalazioni, forse anche per questo motivo, perché sui podcast c'è la possibilità di andare avanti, andare indietro, scriversi esattamente bene la ricetta. Il tocco magico di questo piatto qual è? Il tocco magico è l'utilizzo anzitutto della verdura nel modo migliore e poi, perché è stagionale, e poi questo velo di liquirizia che sembra fastidioso, ma se viene messo con un'armonia, con un equilibrio giusto, si ha un piatto fantastico. Senti, per la tradizione lombarda invece che prevede per Natale? Ma la tradizione lombarda, per quello che è la mia famiglia, quindi un po' fuori Milano, è sicuramente il risotto giallo, con la D finale, giallo. Detto in dialetto milanese, catalano. Però risotto giallo, ahimè, come lo fa la mia mamma, dove c'è una cosa che piace a te molto, che è il soffritto di cipolla, quindi mi devo adeguare un po' di riso. Ma piace quasi a tutti gli esseri viventi, Oldani, non è che sono strano. De Luca, ti piace un po', ma poi un po' di soffritto, mica adesso è... Cioè, non è che io ho il mito del soffritto, però quando senti... Poi il segreto di questo piatto molto natalizio per me è quando la mamma lo fa nella pentola di rame, riesce a far attaccare leggermente sul fondo della pentola questo riso e alla fine si aspetta di finire il riso, poi il più veloce va sulla pentola e comincia a grattare, c'è questa crosta che secondo me ti farebbe impazzire. No, ma non c'è dubbio, invece ti sorprenderò e perderò la cittadinanza romana, ma devo confessare che io non amo l'abbacchio e con queste parole ci fermiamo. Ehi. Per il traffico. Mangia come parli. Mangia come parli in questa puntata di Natale, vi ricordo 349-238-6666 per i vostri SOS Oldani, o anche la segreteria telefonica è Natale, vabbè, avete capito, 02-30-22-41-84. Perché stavi mangiando? No, non stavo mangiando. Ti ho beccato. Ma non stavo mangiando, ma che cos'è questa ossessione? Io ormai ho il dietologo qua, più che un partner chef straordinario come Oldani. Diamo il benvenuto a un tuo amico, una persona leggendaria, iconica. Che ci ricorda il senso di questa festa, no? Un grande uomo, il senso anche della vita, del rapporto con i giovani, del rapporto col cibo, del rapporto con le buone cose. Don Gino Rigoldi. Adesso non esageriamo, per piacere. Come no? Un essere umano che ama anche una buona cucina, difatti non abbiamo mangiato molto bene con quel pranzo con Davide e tutti i suoi amici, quello che ci hanno servito domenica e poi si è creato anche un bel clima di festa, di risate, di sorrisi, diciamolo, di ogni anno da 10 anni io passo questa... sempre un quarto d'ora prima di andare a fare telecronaca, è una specie di tradizione, comunità che nuova succede, di Don Gino Rigoldi, che aiuta naturalmente questi ragazzi e in questo caso li aiutiamo col cibo, ci divertiamo a cucinare, ci divertiamo a passare quello che è il il Natale con le persone buone e care, poi con la benedizione del Don. Don, noi sappiamo che ci sono ancora un sacco di emergenze da risolvere, no? La lotta alla droga, no? L'inclusione sociale. Il Natale è un'occasione, cioè quella vecchia frase, a Natale siamo tutti più buoni, è un'occasione per dare visibilità, per coinvolgere persone, per cercare volontari. Che cos'è il Natale da un punto di vista pratico? Poi ovviamente c'è l'aspetto religioso. Io avrei una piccola preoccupazione, cioè che a Natale siamo tutti più buoni e quindi facciamo finta di essere buoni, anche se tutto sommato qualche giudizio ci resta in testa, ma io metterei in prima fila i miei ragazzi del carcere, sono quelli che hanno più bisogno e sono i meno popolari, perché invece questi qui rubano, rapinano, fanno quelle robe lì, in realtà sono adolescenti che hanno sbagliato, ma possono trovare una strada diversa. Il mio impegno, il nostro impegno è quello di avviarli verso qualcosa di buono, di positivo, di fraterno, e ci si riesce anche, ci vuole un po' d'aiuto, si capisce, perché se uno esce, non ha a casa, non ha il lavoro, rischia, però se c'è qualche strumento in quella direzione, il casa e lavoro, perché poi le buone parole sono buone parole, ma poi ci vuole la concretezza. Anche un buon pranzo, una cosa che certo, fa bene. Devo dire che in questi 10 anni, con la collaborazione, con l'amicizia di Don Gino, ho visto un po' l'evoluzione della sua comunità nuova a Besana Brianza, e ho visto che il recupero di questi ragazzi è in pieno ed è azzeccato, perché ognuno mette un qualcosa in questa comunità, dall'imbianchino a quello che è diventato cuoco, a quello che è diventato pasticcere. E il pasticcere produce anche nella nuova pasticceria che è stata fatta nella dépendance della villa i dolci del paradiso, che sono dolci fatti dai ragazzi e poi naturalmente venduti. I ricavati vengono utilizzati poi per quello che è anche l'andamento di tutta la comunità. Vero, diciamo, Gino? Che c'è da dire anche questo, che la pasticceria lì, che adesso si sta felice a Milano perché apriamo un bar pasticceria proprio nella sede nuova, è anche un luogo di formazione. Noi abbiamo già alcuni ragazzi diventati pasticceri che sono andati a lavorare molto bene in altre pasticcerie da veri professionisti, quindi c'è un doppio risultato: dei buoni dolci, ma poi anche una capacità di poi di la formazione professionale, cioè togliere ragazzi dalla strada e da situazioni complicate, e dargli una professionalità che gli possa consentire di vivere una vita migliore. Devo dire idea, che no? Ci sono anche grandi colleghi che partecipano a questa iniziativa ormai da qualche anno. Negli anni sono passati Andrea Bertone, è passato, adesso verranno i fratelli Cerea, Maurizio Santin, che si dedica alla pasticceria, e vedo che la miglior cosa da fare Demetrio, con questi... Demetrio Magna. Demetrio si aggrega a Magna, Enrico però Bertolino, certo. L'unico che non ha fatto cameriere sei tu l'anno scorso, se non sbaglio. Perché dovevo fare il derby di Torino l'anno scorso, quest'anno diretta premium. Vengo lì, saluto. Però quando vuole Don Pier potrà venire a collaborare un po' con me in cucina, visto che adesso fa un programma di radio e di cucina. Quindi no, devo dire che l'esempio è la più alta forma di insegnamento, e credo che questi ragazzi in questi 10 anni che hanno cominciato ad apprendere un mestiere e a praticarlo in maniera veramente giusta e corretta, creano poi delle buone persone che si appassionano a qualcosa nella vita. Senti, vuoi sentire il primo? Perché oggi lo chef sta preparando il suo menù di Natale, e quindi adesso siamo arrivati al momento del primo. Lo vuoi sentire, Don? Ci fa salire un po' di acquolina. Facciamo un gingolino sulla ricetta. Facciamo un gingolino, facciamo vedere che anche in regia si lavora. Prego, prego, Ferronato, prego. Bene. Allora, Dopo il tegame, carciofi, scarola, molto casa, il primo ancora. Nel primo andiamo senza carboidrato, no? E lo stavi stare punto molto sulla pasta. Andiamo senza carboidrato? Andiamo su una cosa di verdure, perché abbiamo detto di comporlo e aspettiamo fino alla fine, ma poi alla fine avrai la sorpresa. Quindi io direi una vellutata di zucca, che assolutamente quest'anno è l'annata delle zucche fantastiche. Una mantovana la possiamo usare. Gamberi potrebbero essere gamberi rossi o gamberi mazzancole o qualsiasi gambero, purché sia iperfresco. Una mela tagliata a fettine sottilissime, cruda, un po' acidula, e poi una spolverata di caffè. Dobbiamo fare solo una vellutata di zucca, servirla con questi gamberi, se vogliamo, o cotti al vapore o crudi nel piatto, e questa spolverata leggera di caffè. È il secondo piatto, il menù sarà composto di 4, quindi sorpresa per gli ultimi. Quindi poi arriva un primo alla fine, cioè facciamo cacio e pepe al posto. Arriva un carboidrato. Ci siamo detti che dobbiamo insegnare a cucinare, no? Dare dei buoni consigli anche di benessere. Mi sembra giusto. Don, ormai lui pensa soltanto al mio aspetto fisico, e tra l'altro mi fa salire ancora più fame. Senti, la definizione di prete di strada è giusta e sbagliata, ti piace? O pretaccio, magari? Insomma, di strada. Io sono più che altro di casa, perché è sempre la casa piena di gente, quindi un prete di casa. Bene. Casa sempre, sempre affollata, ma di casa. E cosa vi, un piatto del tuo ricordo milanese del giorno di Natale, cosa ci dici? Poi ti lasciamo andare alla tua giornata. Beh, lì erano mi ricordo che erano di regola i ravioli in brodo. Vedi che il carboidrato, vedi che ravioli in brodo di carne, giusto? Ah, questo sì, certo. Questo è il carboidrato, vabbè, sì, carboidrato. Se manco un altro nome, io comunque, vabbè, carboidrato. Ciao Don, buon Natale. Un abbraccio, buon Natale, tanti auguri. Ciao. Abbiamo adesso, perché poi il Natale è tutto, no? Il Natale è famiglia, il Natale è grandissima cucina. Abbiamo un ospite già al telefono, professor Oldani, che insomma è un architetto, una star assoluta, perché esiste anche una componente estetica della tavola del Natale che bisogna fare nel migliore dei modi. Allora, buon Natale anche a Fabio Novembre. Come Fabio, stai? Fabio, ciao, ragazzi, buongiorno. Come state? Buongiorno a voi. Architetto, designer, star. Grande persona, fondamentalmente. Tra l'altro è nato a Lecce, quindi io mi definisco semplicemente amico di Davide. Grazie, sei carino, grazie. Nato a Lecce, quindi adesso poi parliamo della tavola. Quindi nel tuo Natale, nei tuoi ricordi, ci sono, immagino, cime di rapa, lasagne. Le cime di rapa sono più baresi, noi siamo più pure di fave e cicorie. Buono. Lasagne le fate? Lasagne le facciamo. Lasagne sono un po' pugliesi, un po' dappertutto. Però veramente, guarda, se ci pensi, la cucina pugliese è la cucina proto-vegetariana per eccellenza, no? Cioè noi, veramente poca carne, tantissime verdure, un po' di pesce, molto mediterraneo, moltissimi legumi, noi tanti legumi, io sono stato cresciuto a legumi, quindi la fonte di proteine per me è quasi sempre il legume. Le prossima settimana poi facciamo la puntata sui legumi, quindi se vuoi ti richiamiamo. Poi Davide, correggimi se sbaglio, il legume diventa proteina soltanto se viene mischiato al carboidrato, giusto? Sì, cioè, esatto. Diventa proteina assimilabile. Da lì nasce la pasta ai fagioli. Cioè, uno dice, perché non mangi i fagioli da soli? No, mangio pasta ai fagioli perché altrimenti il piatto completo non viene sintetizzato in proteina, no? Il legume, che proprio non è una proteina di per sé. Interessante questa cosa qui, è vero, no? E poi è quello che sostituisce in un modo o nell'altro per i vegani o i vegetariani la parte della carne che rifiutano, e quindi il legume è quello che riesce a sostenere gli apporti calorici giusti per poter stare bene senza mangiare carne. È vero? Si eleva proteina assimilabile soltanto accompagnato dalla pasta. Quindi vedi, tutte le vecchie usanze, no? Cioè le tradizioni sono sempre delle grandi intuizioni, no? Assolutamente. Senti, parliamo della tavola. Tu sei una star dell'architettura, del design. Che consigli possiamo dare? Perché insomma queste sono le ore frenetiche. Domani sera c'è la cena di Natale, poi c'è il pranzo. Attenzione Fabio, perché Pier mi contesta il fatto che abbia detto che il giorno di Natale dobbiamo trattarci bene, cioè mangiare bene e non abbuffarci per poi stare al recupero tutta la settimana dopo. Con questa cosa. Quindi il tuo modo di fare la tavola, dimmelo un po', che poi sentiamo. Ma ragazzi, anche quello intanto, di Pardo. Intanto però mangiar bene ed abbuffarsi sono due cose completamente diverse. Cioè la quantità e la qualità del cibo Non vanno assolutamente parallele, cioè certo, per me certo. Sono ma infatti io sono per la quantità e la qualità. No, ma neanche la quantità, ragazzi, noi mangiamo troppo. Bravo, troppo. Esatto. Voi mangiate troppo, Fabio, è molto bello. Ma in generale, ma tutti gli umani mangiano troppo, noi mangiamo molto di più di quello di cui abbiamo bisogno. Le percentuali sono che mangiamo 4 volte di più di quello che dovremmo, ma nella media. Ma guarda che quando la gente dice vado a farmi una birra con gli amici, una birra è un pasto. Ok? Quindi se mi pido 3 birre è come se avessi mangiato 3 pasti. Cioè, dai ragazzi, veramente mangiare meno. Ti ringrazio. Fabio, va bene, in attesa di mangiare meno, ci dai qualche consiglio sulla tavola, proprio sulla dimensione estetica, tavola, perché guarda, è importante, allora, no? Intanto, la mise en place della tavola per me è una roba molto individuale. Io ad esempio sono in questo momento appoggiato al tavolo della mia cucina, che è un tavolo che non ha mai conosciuto una tovaglia. Ma questo perché è un tavolo in corian retroilluminato da sotto, che quindi quando lo illumino produce questa decorazione mutuata dalla Alhambra, quindi una decorazione islamica, perché poi invece sul soffitto c'ho un serpente biblico con la mela in bocca, quindi volevo proprio questo clash di culture, se vuoi. Quindi ciascuno fa quello che vuole. Guarda, io sono assolutamente, cioè io sono per l'assoluta non in posizione di nulla, ma guarda che io ad esempio come architetto, io ho preso questa decisione da quando ho iniziato a lavorare, io faccio solo spazi per il pubblico, perché lo spazio privato ciascuno deve farlo per sé. Se tu vai nelle case delle persone e se le sono fatte da sole, capisci tutto della loro personalità. Se invece c'è stato un architetto, è come se fosse chirurgia plastica, cioè non riesci più a riconoscere i veri caratteri. Non deve essere invadente l'architetto, deve rispettare, certo, la libertà. In qualche maniera devi fare un ritratto al tuo cliente, ecco, soltanto così accetto l'intervento dell'architetto. Ma tante volte uno vuole una totale trasfigurazione, no? Allora vai dal chirurgo plastico per cambiarti il naso, per cambiarti i connotati, ma così non va bene. Quindi a mise en place, per tornare alla tua domanda, altrimenti io sono il grande deviatore. Aspetta, perché abbiamo un attimo di pausa, rimani lì e ripartiamo da qui dalla mise en place del pranzo di Natale, vigilia e 25. Fra un attimo. Mangia come parli, mangia come parli. Devo dire, mi piace molto l'approccio di Fabio Novembre, il rispetto del gusto, dell'individualità, condivido dell'identità, cosa, della personalità del, guarda, proprio cliente. Pier, anche questa cosa della tovaglia, lui non è che non copra il tavolo o non mette la tovaglia per far mangiare, è che ha un'opera d'arte che va valorizzata, certo, guardandola. Quindi se tu metti un panno sopra, sparisce tutto quello che è l'accoglienza che una persona vuole dare in casa propria. Vero, Fabio? Non solo, secondo me c'è anche questo discorso, il mio tavolo luminoso, è come se fosse luce dal basso, è come se fosse pieno di candele. E qui vi vengo a dire che, infatti, tornando sul mio, che sarebbe un po' i discorsi sull'ambientazione, una tavola natalizia è prima di tutto una corretta illuminazione. Ah. Cioè, se tu metti luce da stadio su una cena natalizia, ciao, arrivederci, già abbiamo sbagliato tutto. Quindi forse l'ingrediente massimo dal punto di vista redattivo è azzeccare la luce giusta. Ecco. Questo proprio senza... Concordo. E la mise en place, perché ci eravamo fermati lì? Cioè la mise en place, ragazzi, veramente, c'è gente che gli piace mangiare con le mani, c'è gente che vuole le 8 posate attorno al piatto, c'è gente a cui piacciono i piatti di Davide per carte, il me compreso. Siamo tutti diversi. Bene. Condivisione, io direi, per questo Natale, Fabio, se sei d'accordo, poi ti lasciamo. Io direi una tavola dove ci si può alzare, dove non si è imbastiti seduti per 4 ore, ma dove si può girare. Per me la formalità, sai, io ho due figlie piccole, la formalità è bandita in casa mia, cioè non è possibile, non è una boarding school, non è un collegio, quindi libertà, assoluta libertà. Poi Lorenzo ci canta viva la libertà, voglio dire. Chiaro. Va bene. Grande, buon Natale anche a te, grazie, buon Natale, Fabio. Buon Natale, tanti auguri, grazie, buon abbraccio. Volevo proporre a Leo e Fausta di mettere sulla loro, come si dice, sul soffitto anche loro un serpente biblico, non sarebbe male per arredare quella casa lì. Ma no, ma ognuno, beh, guarda, quello detto Fabio, è giustissimo, le cioè, 8 ognuno... posate, i 7 bicchieri, i sottopiatti, i piatti piccoli. No, aboliamo tutto, andiamo per la convivialità e per meno cibo, ma buono. Ancora ti becco. Ma ancora questo Maddalena Fossati. Oh, come va? Direttore, buongiorno, della cucina, buongiorno, italiana e grande amica. Ciao, buongiorno, benvenuta. Buongiorno ragazzi, grazie. Siamo in festa, siamo quasi a Natale. Un consiglio da parte del nuovo direttore della cucina italiana. Su quello che è un po' la tavola, su quello che è un, se vuoi, anche un tuo piatto che puoi suggerire, visto che tu arrivi dal mondo della moda, ti sei messo in quello della cucina che è ancora più di moda, quali sono le differenze e se puoi darci due suggerimenti. Allora, intanto voglio dirvi, mi piace questa idea del Natale in libertà, di cui parlavate poco fa, mi piace l'idea di mangiare non troppo ma molto bene. E io personalmente adoro la tradizione, perché comunque la tradizione è come un bell'abito cucito a mano. La tradizione però alleggerita, un po' come fai tu, Davide. Cioè, grazie. Beh, figurati, non lo sapessi come cucini, ho la fortuna di saperlo. No, ma davvero, di cucinare, non so, di fare tutto in maniera più leggera, più sana. E poi naturalmente, se poi benvenuti tutti i gusti diversi, cioè... se sei vegano, se preferisci, voglio dire, secondo me Natale è importante, è un po' come dicevate voi un attimo fa, essere soprattutto contenti, felici e divertirsi. Ognuno... anche se a me le 8 posate non mi dispiacciono, ve lo confesso. Sì, ognuno ha la sua strada, tanto per tornare alla moda, sì, ha la sua strada, sì, per il Natale. Senti, la cucina italiana, che è insomma un monumento, un'icona, fra l'altro devo dire che per chi è a Milano la cucina italiana ormai è veramente un hub, come dicono quelli bravi, no? È un luogo perché c'è la scuola della cucina italiana, c'è ovviamente la parte digital, c'è la parte del mensile, è veramente un luogo nel quale tutti quelli che hanno passione per questo, per questa cosa meravigliosa che è il cibo di alta qualità, possono trovare un luogo di aggregazione. Quanto pesa il Natale dal punto di vista dei consumi, dal punto di vista soprattutto simbolico nella gastronomia italiana? Beh, guarda, il Natale, per dirle in modo filosofico, è tanta roba, nel senso che il Natale, diciamo che è 8 volte il resto delle puntate degli del resto dell'anno. Il Natale, e vi dirò una sorpresa, anche la Pasqua. Una cosa che ho scoperto da direttrice della cucina italiana, la Pasqua è importante anche quella per gli italiani. Comunque il Natale pesa tantissimo, pesa, ma sai cosa? Pesa sia a livello di risorse impiegate, ma sia a livello di emozioni impiegate. Calcola che quanti anni ha la cucina italiana? 88, diciamo. 88. Io sono più o meno 20 anni che collaboro con la cucina italiana. Quindi pensa, io ho visto la nonna che aveva le cucine italiane in casa, mia madre, altrettanto, che ha 86 anni, ha tutta la cucina italiana in casa. Quindi puoi capire da dove viene la mia stagionalità dei prodotti. Ma poi proprio l'istituzione, il patinato, la qualità proprio anche estetica, le foto. Vabbè, adesso non devo fare qua, però lo conosciamo. È vero. Poi il cacio che ha Maddalena in quest'ultimo periodo. Però Maddalena, c'è una tua ricetta del cuore, un tuo piatto del cuore per il Natale, o anche non per il Natale? Aspetta, allora facciamo partire un jingle, perché qua parto questi jingle così a caso, prego. Allora, la ricetta del direttore, prego. Io ne ho due, veramente. Devo parlare diversamente? No, perché il jingle mi ha subito dato quella cosa lì. Io, nella mia tavola di Natale, non manca l'insalata russa, di cui trovate anche una versione vegana nel giorno di dicembre, e non mancano i cappelletti con il brodo di parmigiano. Ma vieni, finalmente! Perché qua oggi sembrava scherzi a parte, capito? Puntata di Natale, cioè già Oldani mi cazza tutte le volte, mangia proprio, mi raccomando, l'equilibrio, mettiamoci una nota, eccetera. Giustamente, poi io adoro Oldani e ci vado anche spesso, però insomma, capito? È tipo la mia coscienza, capito? The Other Side of the Moon, ecco. Oggi è partito col Natale, dovremmo essere tutti più buoni, ma aspettavo che arrivasse qui, e invece no, i cappelletti. E anche iniziata russa è molto buona, mia mamma, devo dire, la fa molto bene, eh? Però vegana, togliamo le uova, facciamo una maionese con le mandorle. Fantastico. Cosa vuoi di più? No, cosa vuoi? Devo dire che, guarda, io sono cresciuta macrobiotica, differentemente da Davide, in casa mia la cucina è sempre stato un tema creativo, diciamo così, e devo dire che per cui ho anche un po' di diffidenza verso le alternative, mi piace la tradizione precisa e netta. Invece devo dire che questa maionese fatta versione vegana è veramente interessante, non ti fa rimpiangere un pochino, certo, ma non ti fa rimpiangere troppo quella classica. Questa sia cremosa che va tutto bene. Vabbè, direi. Allora lo dico sì, Fausta, sì. Forse ancora in tempo di provare. Un'ultima domanda, posso, Maddalena? Cioè, il futuro della cucina italiana, quale rivista, quale trend, eccetera, per l'anno prossimo, cosa prevedi nella tua sfera? Quale sarà l'ingrediente, quale sarà il piatto, quale sarà la regione magari o la nazione che si esporrà di più? Allora, diciamo, non avrò una regione in particolare, perché la mia idea è quella di esaltare tutte le regioni d'Italia senza dimenticarne nemmeno una. Ci saranno ingredienti nuovi, per esempio adesso su gennaio uscirà anche la moringa, che è un ingrediente che tu, Davide, conoscerai senz'altro, ma che potrebbe essere un po' l'ingrediente del nostro futuro, sì, perché fa molto bene ed è molto versatile in cucina. E poi la tendenza in generale è quella, dicevate poco fa voi, cioè di mettersi a tavola con uno spirito non da generale prussiano, ma con attitudine, cioè ricordate che questo è un convivio, un momento di gioia e di emozione, vuoi con gli amici, vuoi con la famiglia, ma persino anche quando parli di business stare a tavola è bello, no? Assolutamente, cui, i migliori, diciamo, affari questa, si dice, no? Sì, si fanno a tavola. I migliori affari si fanno a tavola, per cui in tendenza una serenità. Infatti il giornale parlerà più di cultura del cibo oltre che di ricette, non ci saranno solo ricette, ma parleremo di tante altre cose, di famiglie, ma anche lì di famiglie anche in senso un po' allargato, famiglie che fanno buoni prodotti, di persone, insomma sarà un anno gustosissimo. Bene, molto bene, grazie Maddalena. Vi leggeremo, ci verrà l'acquolina in bocca e mangeremo tanto, e poi Oldani ci dirà che mangiamo troppo, è un classico, esatto, ti capisco. E andremo avanti così. Dedichiamo anzi dell'SA da Salmiele al nostro amico Fedele Usai, che magari ci sta ascoltando, gli mando un bacio. Siamo arrivati al secondo. Grazie. Stiamo salutando Maddalena. Ciao Maddalena. Grazie. Ciao. Buon Natale. Ciao. Il secondo. Sei pronto per il secondo del menù di Natale? Il terzo dei quattro piatti. Cosa vorresti? Cosa ti immagini per il secondo piatto, che poi è il terzo? Chiamiamo secondo, ma è il terzo piatto. Non si sa perché si chiama casa secondo. Mia, casa dei miei genitori, casa dei miei zii, dove insomma ho passato una quantità di Natale. Il 25 ci sono due primi. i due primi sono due primi della tradizione. Uno è un tortellino in brodo fatto, ecco, vedo anche da dietro al vetro c'è gente che urla brodo, brodo, e l'altro è invece una grande fettuccina di Valmontone, che è questo paese del sud-est di Roma, insomma sulla 1 andando verso Napoli, ma molto vicino a Roma. Esatto, fanno proprio, cominciano a fare dei gesti, capito? La fettuccina a ragù, la fettuccina. No, io direi. Passiamo al secondo, giusto? Sì. Secondo, io direei. La potremmo... castagna ripiena di. No, prego, prego. No, utilizzare una carne, te la concedo. Vai, grazie. Un volatile, però, carne bianca. Esatto. Quindi più digeribile, più elegante. Possiamo fare o l'anatra, o possiamo assolutamente fare una faraona. Sì. La farei totalmente disossata. Farei una farcia con una ricotta leggera, magari di capra. Sì. Qualche pezzo di castagna spezzettato dentro e due foglioline di menta. Farei un rullo di faraona, la farei cuocere per più o meno 45 minuti e poi lo servirei con un tocco di puntarelle crude tagliate in insalata, un goccio di aceto, magari un balsamico invecchiato e delle uvette. Beh, questo è, direi che è un piatto molto che buono. Se seguiamo poi il menù armonico, hai pronunciato la parola puntarelle e quindi mi hai commosso. Okay. C'è Sandro Ruotolo con noi, benvenuto maestro, come stai? bene, buongiorno. Com'è il Natale a Napoli? Buon Natale a tutti. Buon Natale anche. Com'è il Natale a Napoli dal punto di vista gastronomico? Tu sei un napoletano atipico, io sono un romano che non mangia l'abbacchio, tu sei un napoletano che? Un napoletano che non ama gli struffoli, assolutamente no, e che non ama anche il capitone. Quindi sono proprio atipico. C'è Giorgio De Luca dietro al vetro, che è il nostro autore. Sta piangendo. Lo so. Però succede. E al posto di questi due ingredienti, cosa rimpiazziamo per allora, il pranzo? Voi sapete tutti che noi napoletani la vigilia si cena, Non è che aspettiamo il pranzo di Natale. Non stiamo a pettinare le bambole, ecco. Esattamente, nel senso che la sera diamo... ovviamente spaghetti con le vongole, poi c'è chi mangia il capitone la sera del 24, io vado a casa pezzogna. Mia o salmone oppure la spigola, la pezzogna, ecco. Pesce. La pezzogna è una cosa meravigliosa. Una specialità nostra che io adoro è che l'insalata di rinforzo. Ecco. Però dopo, o il giorno di Natale, dopo Natale, no? No, noi il 24 sera. Allora, noi a pranzo del 24 si fa il digiuno, per modo di dire, perché c'è chi si fa la pizza di scarola, insomma andiamo sul leggerino, no? Ma sì, sempre piatti napoletani. La sera gli diamo, gli diamo con pesce, antipasti, e poi chiudiamo anche ovviamente con i dolci di Natale. Quindi pesce e l'insalata di rinforzo è cavolo, alici, olive e poi mettiamo i sottaceti. Qui c'è... ma dopo il pesce, diciamo, non insieme al pesce. E questa è filosofica, l'insalata di rinforzo, no? Cioè... ah, è bellissima, ma te la puoi prendere poi anche a Natale, il pranzo di Natale, no? Che alcuni, ma la cosa divertente è che siamo molto oramai, con il fatto che c'è l'internazionalizzazione del cibo, si mangia sempre eccetera, stiamo perdendo un po' tutte le nostre tradizioni. La cosa divertente, vi voglio raccontare, è che mentre vi aspettavo, voi sapete che io ho la scorta e sono dei carabinieri, vivo a Roma, anche se sono napoletano, e in questo momento con me ho il brigadiere che è napoletano e l'appuntato che è napoletano. E quindi ci siamo consultati un attimo e abbiamo tre piatti diversi, tre cucine diverse. Addirittura a Natale l'appuntato mio mangia la pasta con il capretto e le patate. Ah. Mentre il brigadiere va sulla pasta rossa, quindi va sulla pasta al forno e ci mette poi ancora il pesce, anche se ha sottolineato il brigadiere che ha dato addosso, diciamo, alla vigilia, cioè il 24 sera. In realtà il pranzo di Natale a Napoli sì, si fa, ma poi si aspetta il Capodanno, la fine dell'anno, per dargli la botta finale. Anche il 26 è importante. Fermiamoci un attimo, ripartiamo da qui fra un secondo. Mangia come parli. Mangia come parli, stiamo facendo un giro d'Italia oggi, eh? Fra poco ci sarà l'ultima ricetta dello chef Oldani. Siamo con Sandro Ruotolo che ci sta raccontando il Natale, ma tante ricette diverse del Natale, ovviamente in salsa napoletana. La cosa più incredibile per quanto mi riguarda è che la mia consorte è britannica, per cui c'è anche l'elemento, diciamo, di cucina inglese, anzi britannica, perché se dico inglese e mi sente mia moglie, perché è gallese, per cui mai dire Inghilterra, ma sempre dire Gran Bretagna. Per cui a pranzo, mentre, allora, un piatto per esempio che a me piace molto, un pranzo di Natale, sono i tortellini al brodo, il brodo del pollo che poi ti mangi, certo, invece no. Noi mangiamo a pranzo del il 25 il tacchino ripieno, che è tipico proprio britannico ed è molto buono, devo dire la verità, per cui è una mediazione culturale che io accetto sempre. È un melting pot straordinario. Senti, passiamo ai dolci, perché insomma qua abbiamo celebrato la pezzogna, abbiamo celebrato il carboidrato. Allora tu, anch'io non impazzisco per gli struffoli, devo dire la verità. No, insomma, il miele a me non mi piace. Io adoro la cassata napoletana. Per me, se mi dici Natale, cassata, raffioli e ovviamente il roccocò, la pasta reale, tutto diciamo. Cos'è il roccocò? Diciamolo. Noi napoletani, essendo stati dominati dai francesi, dagli spagnoli, per noi è la guantiera. Quando andiamo a prendere la guantiera con i dolci, no? Sì. E lì adoro veramente, noi il roccocò è una cosa straordinaria. Cos'è sto roccocò? Diciamolo a il roccocò, De Luca che impazzisce. Allora, intanto devi avere i denti perfetti. Perché è molto duro, è secco. È secco, hai capito? E quindi però poi si scioglie in bocca, è pieno di sapori di cannella. Su questi dolci mandorla è una cosa veramente straordinaria. E ci dividiamo appunto nelle famiglie napoletane, ci si divide tra struffoli e cassata. Posso dare un ultimo consiglio, poi la lasciamo, di una cosa nuova napoletana che adoro, che è la pastiera lievitata di Alfonso Pepe, che è una cosa unica, inimmaginabile. Ma la pastiera, sì, però hai capito qual è il problema di oggi? È che noi oggi, avendo i frigoriferi, i freezer, i cibi che viaggiano per il mondo, la pastiera per noi è un dolce di Pasqua. No, difatti mi stavo spiegando, è una pastiera lievitata, è unica al mondo, sì. Dove viene fatta nel periodo di Natale da questo grandissimo pasticcere che ha le mani, ha una magia nelle mani per la lievitazione, quindi lei immagini gli stessi ingredienti messi in una sorta di panettone napoletano, molto soffice, molto, io dico anche cuscinoso, se si può dire, se me lo passa. Bello cuscinoso. Ed è una cosa degli ultimi anni, se nel caso andasse a Napoli. Ma ci piace sempre sperimentare, per cui accettiamo. È fatto da un pasticcere napoletanissimo, quindi gliela consiglio per il prossimo Natale al posto degli struffoli. Sandro, buon Natale, bocca al lupo per tutto, per quello che continui a raccontare, per come lo racconti e per l'importanza anche delle tue battaglie. E c'è un altro ospite oggi, fra poco abbiamo gli Essere Soldani, poi abbiamo anche l'ultimo piatto, ma intanto chi c'è? C'è la nostra amica, la mia amica Angela Frenda, giornalista e gastronoma e anche grande cuoca. Buongiorno Angela, ciao. Ciao, buongiorno, no, grande cuoca, non ecco, una passione incredibile. La descrizione praticamente era donna ideale, possiamo dirlo, no? Sì, sì, messo insieme quattro elementi che la rendono irresistibile. Non è vero. Ciao, grazie. Buon Natale. Cosa un suggerimento tuo veloce così di un piatto o due piatti della tua infanzia del Natale che possono essere napoletani oppure a questo punto anche milanesi, visto che tu lavori e abiti a Milano. Sì, guarda, io vi suggerisco il primario di pasta perché secondo me soprattutto rifà, se volete, con il ripieno di genovese, perché secondo me è un piatto unico. Poi a Natale si ha sempre un po' più di tempo per cucinare e quindi... Vogliamo dire a quei quattro che non lo sanno cos'è la genovese, perché qua c'è stata l'ovazione, abbiamo una regia tutta napoletana, però insomma... Ma sì, perché la genovese è uno dei sughi a cui io sono più affezionata, che è un sugo napoletano, non genovese, al di là del nome, che viene fatto con un pezzo di carne, di solito il girello, insomma, o quello che preferite di più, con un trito di carote, cipolle e una lentissima cottura. E sedano, mia suocera per esempio usa il sedano. Ed è un primo e un secondo, cioè con il sugo, con il condimento si condisce la pasta. Beh, e poi nello stesso piatto si mangia la carne. La genovese si mangia a livello di pasta, si mangia tipo con quelle le matite spezzate, con i zitti, no? Le matite spezzate, sì, certo. Ma mi vede spertino, lo vedo veramente sul petto. Però ti posso dire una cosa, per me adesso pasta, patate e provola, l'ho citata 100 volte, rimane proprio imbattibile. Bella azzeccata, però, bella azzeccata. Ma guarda, devi chiedere a Dordani, secondo me lui sì che ci farebbe una pasta, patate e provola fantastica. È una cosa meravigliosa, qualche cozza alla fine, aperta a parte, buttata sopra, muori. Fantastica. Ah, la cozza ci sta bene sulla pasta del provolone. La cozza sta benissimo. Però l'importante è che sia azzeccata. Azzeccata vuol dire che non deve essere liquida, deve essere azzeccata. Bella densa, bella azzeccata. Certo, deve essere un po'. Che poi addirittura a Napoli di solito con la pasta azzeccata si dice che la puoi scarsare, la puoi riscaldare il giorno dopo, no? Adesso stiamo proprio andando nella mitologia. Sì. Più caramente. Cosa che consiglio quando ci sono con due giorni in anticipo, sì. Quando ci sono questi piatti così robusti, così consistenti, io consiglio sempre una temperatura più bassa, pronti a serviti tiepidi, un velo di olio se vuoi, quattro cozze e poi mangiati immediatamente, se no devi continuare a soffiare per raffreddare e non amo molto questo. È vero, è verissimo. E l'altra, Davide, secondo me è una torta di mele, un apple pie o una torta leggera. Secondo, in questo periodo ci sono le mele, sono buonissime. Le annurche o andiamo su un'altra mela? Io ho letto il libro di Angela, quindi so che sta andando benissimo. Fra l'altro adesso so che tu sei una timida a cui non piace parlare, però è vero, insomma. De Luca sta mangiando una mela annurca lì dietro, qui dalla regia. Sì. No, il libro, sai, si chiama Ricette per Natale e mi sono fatta un regalo, perché io amo moltissimo il Natale, ma davvero, mi mette di buon umore. Poi da quando il mio bambino è, immagino che sia così per tutti, è molto più divertente, molto più allegro e mi piace molto di più cucinare. Ed è il periodo in cui uno veramente ha un po' più di tempo, per cui ho raccolto le ricette che faccio abitualmente. E devo dire che insomma, mi sono fatta un regalo, ecco. Hai fatto un regalo a te stessa e a tutti noi. Buon Natale, buon pranzo, buona cena. Tanti e viva auguri, pasta, Angela. Provola azzeccatissima. SOS Oldani, ciao Angela. SOS Oldani, vai. SOS Oldani. Oh, allora vai. Non so chi è il primo, lo lanciamo così al buio, via. Vorrei sapere qual è il modo migliore per conservare il parmigiano. Avvolto nella carta da forno e poi nella plastica? In una scatola di plastica? Questa è la Laura da Roma. Allora, Laura da Roma, io direi anzitutto di comprare pezzi piccoli di grana di questo formaggio fantastico, più possibilmente invecchiati e poi mantenuti o sottovuoto, visto che da casa ci sono anche le piccole macchine che lo mettono sottovuoto, oppure in una pellicola ben stretta e messo poi in una scatola a parte nel frigorifero. Maria da Pavia. Chef, mi consigli altri piatti da provare nel ristorante giapponese oltre al sushi? Grazie. Oltre al sushi un timballo di un teppanyaki lo potrei consigliare, che è questa piastra dove viene cotta la carne, o il tonkatsu, che è un'altra. Vedo che non mi seguivi, però tonkatsu. O altrimenti io direi una soba che è una pasta giapponese con un fritto. Con grande rispetto per tutte le culture, per la cultura giapponese si mangia benissimo. Ma noi adesso veniamo da pasta, provo la zeccata e mi parli del però soba. La cultura giapponese è questa. Sì, ma ci mancherebbe. Andiamo con Paola da Napoli. Vai, Paola. Ciao ragazzi, vorrei chiedere a Dani qual è secondo lui il paese in cui si mangia meglio fuori dall'Italia. Grazie. Domanda molto, molto interessante. Credo che al giorno d'oggi, credo che un po' in tutto il mondo, dall'Asia, in Portogallo, anche al Sud America, anche al Nord America si trovano grandi posti di grande cultura, di grande cibo e di grandi prodotti. Bene, abbiamo i minuti, anzi i secondi contati per lanciare la canzone del giorno, che è proprio a fagiolo, è come fosse passata la prova, la bella azzeccata, ed è Natale di Francesco De Gregori, la genialità del maestro De Gregori che riesce a declinare e a reinventare uno dei concetti più abusati e più tradizionali come la canzone di Natale, con un brano intimista e di una bellezza inebriante. Questo. C'è la luna sui tetti, c'è la notte per strada, le ragazze ritornano in tram. Ci scommetto che nevica tra due giorni, è Natale, ci scommetto dal freddo che fa. E da dietro la porta sento uno che sale, ma si ferma due piani più giù. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. È un peccato davvero, ma io già lo sapevo che comunque non potevi essere tu. Però, caro Aldani, potevi essere tu, puoi essere tu a fare il consiglio antispreco anche consiglio oggi. Consiglio antispreco, assolutamente la mia frase, pensare prima di comprare e pesare prima di cucinare, quindi soprattutto nelle feste di Natale andare cauti con quello che si cucina e naturalmente ricrearci la propria insalata di rinforzo napoletana. Vale a dire tutte le cose che riusciamo a tenere in quei due o tre giorni, assemblarle. Ma il quarto piatto del menù? Il quarto piatto del menù non me l'hai chiesto, vuoi sapere? Hai 30 secondi. Io direi panettone con la paletta di fico d'India, andiamo in Sicilia, sì. Torniamo a Milano con il riso candito dentro, che è il mio panettone del 2017. Quindi ti ho messo un carboidrato, ti ho messo anche il riso, ti ho messo una paletta di fico d'India e così chiudiamo. Magari a questo punto mi sento di lasciarmi un po' andare uno zabaglione con un po' di marsala dentro su questo panettone. Ha un cuore pure lui, pure lo chef zabaglione. Ragazzi, grazie. Mangia come parli, ragazzi, diamoci dentro, mi raccomando, ci aspettano tre giorni intensi, ma ce la faremo, saremo all'altezza del nostro compito. Dai, ciao. Ciao a tutti.